voce, ma come radio non mi piace niente. No, vabbè, è un po' impazzato, Però la segnale 920 è bello schicchiante. Ma cosa, qual è la sua voce? È sempre stato impazzato, Antonello. Infatti, come quello che parla, come si dice, quello che va in televisione, che fa le prime delle Antonio impazzato, e lui invece Antonello impazzato. Ha sentito parlarlo bene? Ok, ho capito. Vabbè, quindi a un certo punto dovevo fare. Lasciamo un pochettino. Ecco qua. Adesso sono impastato o cosa cavolo so? Allora, se parli calmo e lucido, ti capiamo bene, Antone, così andava bene il messaggio, dai. Cosa hai fatto? Ti sei posta qua, Perfetto, sembra Luca giurato, Antone. Ah, ok, d'accordo, va, non so quanto te vuoi, anche te vuoi, non c'è problema, ok. Va bene, signori, dai, io ne approfitto che mi devo allontanare dalla radio, devo fare cosa? Devo uscire da casa, poi magari riprendo se tutto va bene. Se si riascolta, tu fate sentire in questi giorni, dai. E poi mi dici come è andato l'esame anche. Ok, ciao Tonino, ciao Antonello, ciao Bombolo e ciao Antonio. E ciao Emanuele, se ci sei ancora. Eventuale Sfortuni, idem, ciao. Ciao, ci sentiamo in settimana, già ti chiamo. Ciao a te, alla prossima. Alle prossimine, Emanuele, vai. Ciao Tino, alla prossima, ci sentiamo domani, no? Emanuele è da magna. Antone. Oh, via, dimmi. E cosa hai combinato? Niente, ho messo un'antenna, tassella provvisoria e basta. Piccato, ho fatto quello. Cosa hai messo provvisoria? Una Energy più che altro. Sei forte qua, sei quasi 1,30. Vabbè, comunque sia, ho ordinato la 90 euro. No, la verità comunque sia della Midland, quindi a un certo punto mi arriva fra settimana, spero che sia come si deve, adesso vediamo un pochettino. Già ritirata l'hai? No, l'ho ordinata più che altro, l'ho ritirata, l'ho ordinata, il discorso è quello. Ma tu hai detto che ce l'aveva già, te l'aveva conservata fino a quando andava a ritirarla? Ti sto dicendo che l'ho presa oggi, in pratica l'ho comprata stasera, quindi a un certo punto ordinata eccetera eccetera, mi arriva cioè una quella stasera mi hanno prestata più che altro, la verità, e già lo sai anche tu, ma comunque sia il suo prodotto della come si chiama? Energy. Esatto, sì, questa qui è Energy, quello che sto usando io. Adesso, in questo momento, sto usando la Energy. Ok, vabbè. Avanti a tu. Capo, va benissimo, ti sento benissimo. Comunque sia, la antenna che ho in pratica ho ordinato. 5 ottavi più che altro e la Mantova 5 più che altro, hai capito? L'M Mantova 5 è M5, poi c'è l'M6, l'M8 eccetera eccetera. Guarda, ma quando va a comprare non metto la creativoli sul telefono. No, non preoccupare, 90 euro, mi sta bene così come altre reazioni, 90 euro, mi sta bene. Ma adesso Antonio cosa stai usando? Eh? Adesso che antenna stai utilizzando, Antonio? La BM7L sto usando. Di chi l'usa sta usando? Ma come mai la stai cambiando? Certo, chiamo Michelusa. Se vuoi Michelusa, chiamo Michelusa, Tony. Cosa vuol dire, Ricca? Come me la stai cambiando, Antonio? La cantante è cazzo in conto, scusa, secondo te? No, non conduce più, hai capito? La Mantova non conduce più. Ma stiamo parlando di Mantova, stiamo parlando di via 27 L. Non ti ho capito, la verità, eh? E la Mantova è andata in ora a mare, mi hai capito, Antonio? E lui sta usando una Energy. Ma no, cazzo, funziona benissimo, va bene. Ma scusa, questa antenna che hai adesso, perché la vuoi cambiare? Perché in pratica l'attacco del PL in pratica alla bobina si è staccato, il discorso è quello. Ah, quindi te ne sei comprato un'altra per quella. Cosa te ne devi fare di quella? La prendi? Sì, a voi? Vieni a casa e te la prendi. Ok, vabbè. Va bene, vai a casa e me la prendo. Chi prima arriva ce la prende. D'accordo, ok, non c'è nessun problema. Vieni a casa e te la prendo. Io te la pago, me, allora. Lo so, non ti preoccupare. Ci mancherebbe. Non sei come gli altri, ehi? Non sei come gli altri, perché gli altri come sono? È che anche la... No, no, non ci sto capendo più un cacchio io. Vabbè, certo, ancora non ti do 50 euro, eh. Ascolta, attrabili in culo, se la vuoi, vieni, te la prendi, mi dai i soldi e va a fanculo. Il discorso è quello. Ma anche vaffanculo. Che sei io? Quello vaffanculo mi ha detto. Quanto ti deve vedere, non l'ha capito Antonio, Antonè. No, ma siccome ci abbiamo durate, cosa vuol dire a un certo punto, scusa, se la vuoi l'antenna è quella, se no, la devo dire io. Ma quanto ti deve vedere Antonio, non l'ho capito. 30 secondi fa. Quanto ti deve vedere Antonio, che Antonio non l'ho capito. Io veramente non ho chiesto niente di quanto ti deve vedere la verità, perché non ho chiesto niente. Questo è poco ma sicuro, quindi a un certo punto. Ma come hai parlato sembra che hai detto sì, già lo so. E lui ha detto io te la pago, e tu hai detto sì, già lo so, non sei come gli altri. Ho letto una cosa. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco. Chi è che è? Tutto a posto, sì. Insomma, a tu, date che dai, vai l'antenna. Ma che bocca con la lingua. Quant'è che mi dai? Ma che bocca con la lingua ti faccio dare. Non capito. Che disgraziato che sei qua. Stronzo, va. Che insomma, dite un attimo. Ti sono guglione, stronzo, disgraziato. Come caso che mica sono assassino, mi ha detto tu. Ti ha detto pure andare a far culo. Che cazzo di tutto mi ha detto tu lì? No, non ho capito. Vado, è stato tutto. Guarda Antonio, se tu la smonti, se me la smonti l'antenna che stai vendendo, anche se c'è un attacco d'otto non mi interessa, me la assembli, mi dai due giri di nastro, ti presto la picchiera mia e ti faccio fare una scoppata che non te la dimentichi più. Ma vai, finisci. Ma sei disgraziato, Seba. Non ci credo, io ce l'ho negronetto, salame negronetto. Che tu non ci credi? Io ci credo io già. Sì. Vabbè, ok, a posto là. Una scopatta per tutti i cibi, dai. Facciamo 5, non uno, 5. Per vedere come cazzo fai. Ehi, non ti preoccupare, parte che siamo fermi. Va bene, anche. Sì, ma no, ci ho preso un cazzo, l'ha matto paura. No, vabbè, comunque se funziona io, Antonè, 2-3 bottiglie di birra te le offro a me. Questo c'è. Vabbè, ti sto dicendo adesso che la Mantova funziona bene, veramente bene, la verità. Adesso la verità, comunque quella e siamo a posto. Solamente il teatro fa la soldatura da PL. che c'è giù fino alla bobina che è sopra, non basta, non vale altro. Chi offre di più, tu 3 bottiglie, io ti do 5 bottiglie, forza. E una caccia. Vabbè, ti compare giù un platò di 10 lattine di Eurospin, contento? Se ne so 12, di quanto so? Ah, così sì. Ma cosa be... Ma sei scemo o cosa? Ah, io che mi serve per campagna l'antenna, ti compro un platò di lattine di Eurospin, di birra. Secondo me c'è già detto tu e Torino. Il discorso è quello, comunque sia. Quindi, te lo sto dicendo, l'antenna è quella che è. Purtroppo, quindi quando la porto, come la troverò? Già lo sai anche tu, perché ci sono quella specie di... come si chiama? Di... plastici, quello lo posso chiamare, cazzo, a un certo punto. Se no che ti mettete in una distilleria comunque. Sì, una distilleria. Comunque dai, Antonio, tu non hai capito. Antonello, non gliela futti l'unza della birra che devi darsi. Antonello, se li dai le dinare o ti la darsi. Questo sta dicendo a me. A parte quello non c'è da niente. Direi tutto, A me della birra non mi frega niente, proprio niente. Il discorso è quello. Il problema in pratica che quando la mantova, quella che ho io, è totalmente diversa, e tu lo sai, è totalmente diversa dagli altri. Quindi ci sono due placche, ogni silo c'ha due placche, quindi c'è due placche larghe, due placche strette, due placche a un certo punto è quello. Se si dovesse bloccare quelle, sono fregato, non posso fare niente, hai capito? Il discorso è quello lì, è Tony, il discorso è quello lì. Tu mettila come vuoi, non lo so. Non la puoi smontare, rimane fissa, perché se la mezzo sciolta tu l'avevi detto, così è. Cosa sta succedendo, cazzo? È un casino, cazzo. Ancora non l'ho tolta, la toglierò domani, ma comunque sia, se va tutto bene, se sei fortunato, in pratica, l'antenna... in pratica è a posto, ma se dovesse andare male una cosa del genere, sono fregato io, sei fregato anche tu, perché rimani con l'altro, hai capito? Tony, ci sei? Sì. Sì, da ci sono Tony, via. Io ho già capito Antonio, che riserva che non ha capito, vero tu? Io non ho capito, sono scapitato. Allora, ti ricordo, allora, Antonio, la Mantova, il primo modello, già lo sai anche tu, prendi e installi. Il secondo modello invece c'è la specie di incastro, te lo ricordi quell'incastro che c'è in pratica, nello stilo, te lo ricordi? Sì. Sì, ho capito, il primo modello aveva i tubi che avevano una riduzione incorporata, che erano ristretti giù. Nel secondo modello invece i tubi erano tutti in una stessa misura e avevano gli adattatori, quello vuoi dire? Esatto, sì, e infatti è quello che sto tenendo io in pratica, che mi trovo tutto incollato, hai capito? Il discorso è quello, mi trovo tutto incollato, il discorso è quello, hai capito? Spero di essere fortunato, se sono fortunato che posso in pratica tu dire tutto, mi sta anche bene, non c'è nessun problema, hai capito? Se dovessi essere sfortunato, manco con la mola ce la faccio a staccare tutti i pezzi, hai capito? Ma perché questa antenna tu la devi smontare, che è già piazzata? Esatto, sei bravo. E dov'è questa antenna piazzata? A casa, dove vuoi che sia a casa. Beh, allora perché la devi smontare? Perché il cazzo c'è il cazzo. Ma secondo te, cazzo, questo è solo la smotoccata, perché in pratica lo conduce più il polo positivo del PL, il discorso è quello, non c'è più un cioè non c'ho segnale, non c'ho niente, eccetera eccetera, capito? Antonio, 7 metri in ascensore non ci sta. Ma scusa un attimo, ma mica devi smontare tutta, se hai quel problema basta che togli il primo elemento dalla base, non è che la devi smontare tutta, no? Togli il primo elemento dalla base, intanto se il problema è nella base. Sì, ma devo svoltare anche il PL se permetti, scusami, ma è così? O no? Il PL è saldato a me? No, il PL era affittato, la mantova era affittata con 4 viti autofilettanti, ma le puoi sempre togliere, tagliare le viti, fare dei buchi, ci puoi mettere, li puoi fare delle filettature nuove, autofilettanti, autoforanti, puoi fare su chi vuoi. Non è come dici tu, allora quello che stai dicendo tu è la mantova turbo, cioè la mantova 5 più che altro, io ho la mantova turbo, quindi è diversa. La mantova turbo è il PL, il connettore è avvitato su quella piattina rotonda di metallo. Bravo, ci sei arrivato, visto vai. Sì, lo so, ce l'ho io in garage una di quelle piattine col PL attaccato. Allora, visto vai che è diversa la cosa, non è come la mantova 5, sarebbe stato così facile, magari. Sì, ma è facile lo stesso, Antonio, non è che ci sia tutta questa gran difficoltà. Vabbè, comunque sia, per te sembra facile, ma comunque sia, è difficile. Quindi a questo punto, piano piano, si fanno le cose e non faccio altro che stagnare il cavetto che parte dal BL e salire sopra. E se non ce la fai, Antonio, a ripristinare il connettore sulla piastra, ti metti un cavetto esterno e gli attacchi direttamente un PL su un cavetto esterno e la massa gliela salda direttamente su quella piattina rotonda. No, devi fare le cose come si deve, io guarda, no. Voglio fare una cosa come si deve, non basta, non voglio fare altro. A un certo punto. La fai come si deve, lo vulcanizzi, lo fai bene, quello sul col termodestringente, è fatto proprio bene a regola d'arte. E lo stai lì a rompere, perché se non hai attrezzi tipo morsa per forare o morsa per mantenerti la piastra o trappani per forare, ho detto fai quel lavoro lì e ti esce un bel lavoro lo stesso. Vabbè, piano piano lo faccio, non ti preoccupare per quello, no? Quello che è, lo farò. L'importante è farlo, poi il resto ce l'abbia in culo. Tony, non ti preoccupare. No, ma io non sono preoccupato. Tanto io ho già capretto me, quindi non c'è problema. Tutto sta a faranire, bu. Che è a faranire, bu? Ma c'è un tiro di valla. Guarda, sarai vulcanizzata bene, ne esce tutto, se è bella sigillata. Non ha problemi l'antenna, si stacca tutto. Se è buccia così, allora è un problema. E se l'hai messo la vaselina è meglio. Sì, con la vaselina, oh yeah. Guarda che adesso sto usando una B27L in questo momento, la verità. Quindi, installata sotto, un metro e mezzo dopo, sotto la mantova turbo, la verità, Quindi, vedi tu. Sei morti, no? Ok. Avete fatto in 5. Ho detto, quanto la vendi questa B27L? Non è la mia, la verità. Devi chiedere a chi è il padrone. No, lo chiedo a chi è il padrone. E chi è il padrone? Ma te la chiederei a Tino Musso. Ah, di Tino, Chiede a lui. Lui sa chi è il padrone. Ma vai, che Tino Musso non conta niente. Ah, io problemi da te non ne ho. Quindi, io bene quello che c'ho. No, io stavo cercando una disgraziata così da rimettere a posto per mettermela in campagna, niente di che, non è che non volevo spenderci neanche un centesimo, al massimo due bottiglie di birra. Già girato, sì, ecologizzato, sì. No, io no, ma tu sì però. Ah, io sì, ma te sei sbagliato parecchio però. A me interessa il caffè, quindi il latte, quindi niente, caffè e latte, sì sì. O se no, non so. Come si dice, quell'altro eccitante. Come si dice? Tutto d'un colpo. Cazzo, chi sei, Falcone? Come si dice? Tutto d'un colpo eccitante. Cazzo, Antonio, ma lo dai bigliato? La fetamina in culo. A me pare siamo tornati a livelli degli anni 70, 80. Che se mi aveva fatto con la mamma sonnello? Che se non ti ha fatto nulla te lo fare con il gigetto? Ah, che sei spaventato? No, no, ti devi spaventare tu, che sei tu quello che sei davanti. Io sto sempre dietro. Ah, ti credo. Ma le due sono... Dillo a me, dillo. Sì, sì, sì. Ti preoccupato? Poi a cadenza me le gambe, però con la mano da dietro. Ma ti preoccupato, fregatene. Claro. Oh, sono 4 anni che non vedo la mamma, che no, sono già beccato proprio alle 2. Ah, esci mai. Roba da matti, torni, dipende, che non ce la faccio. Vedi, vedi, ah, esci, ah, ciucucciu, ciucucciu. Tu hai bevuto l'elisir, Antonè. Ah, tu non ho capito, Tony. L'elisir hai preso, dai. Ma quando vai sei così scioltino oggi? Ah, no, che preoccupare. Vabbè, Antonè, comunque, che caffè bevi? Ti porto il caffè e il latte, non è un problema. Prendi io il caffè e il latte se vuoi, me. Ah, tu allora devi regare una mucca e una telefazione. Ma secondo me bevi caffè e latte. No, siccome mi ha detto che lui beve solo il latte e il caffè, io vengo con il caffè e il latte. Ah, era un po' scuro, perché c'è un latte. Ma... era per battuta, dai, quando è non capisci, Antonè, ma tu. Già, va bene tutto, va bene lo stesso, vai. Vai, Antonello, Antonello. Ma pensate, quando l'ho conosciuto avevo 18 anni io. A mangio 52, mi credo un po'. Hai visto, è rimasto di coglionito bub. Che se ne coglionito sei tu, Antonello? L'aggio di Zoro, l'aggio di Zoro, tu ne avevi già 30, quando ti ho conosciuto. Avevi 20 anni e sembravi già vecchio. Adesso non lo so cosa sembri. Dila a tutti, sì, di... Almeno fai invecchiare la birra, Antonello. No, ancora no, grazie a Dio. Ma dimmi una cosa, Antonello, ma sei per sposato, sì? No, sono sposato io, già lo sai. Ma sei fidanzato? Neanche. Sì. No, assolutamente no. Ti stai sbagliando anche tu, Tony. Scusa, ma tu non ce la compagni. Non sono fidanzato, te lo sto dicendo, caro. Vuoi bottigliare con me? Vabbè. Tony, guarda, guardate. Allora cosa? Mamma me l'aveva presentata una volta la sua fidanzata, pensavo fosse sposato. No, assolutamente no, non sono fidanzato io. E quindi cosa ti è quella che c'è in casa? Mandante. Eh? Mandante. Hai Antonio Riserva. Anche tu c'è la badante, Antonio, beato te che... Hai visto, eh? Hai visto, eh? Antonio. Eh beh, a 20 anni fidanzato, a 30 anni non tira più badante, non è così, Tony? No, io ero più convinto che Antonello faceva la badante a lei. Ah, no, Antonello è badanto, è maschio, dai, adesso non siamo lì, eh. Ecco, ma la faccia, risentiamo. Cosa ride, Ciao a tutti, buona cena. Scatta, qui stiamo affrontando un problema sociale, chi così ha da mania? Ma non lo so io, non è giusto, dai. Non so io, poveretto, questo ragazzo non sa neanche se è carne o pesce, e quello, ma io vado a mangiare. Lei è venuto all'appetito. E che sentirà? Vabbè, dai, ma appetito, allora. Allora, troppo ridere mi fanno, eh. Ok, Sì, ok. Non c'è problema, là. Oh, yeah. Santore, ma non stai fumando più? Io non fumo, la verità è quella. Magari bevo, ma fumare non fumo, già lo sai. Tu fumi da dietro. Il sigaro fuma, Antonello. Vabbè, ma lo sapevo che non fumava, volevo portarlo a questo. Ah, ma sta lì. Ciao, Tony. Buona, Fai, buona, buona. Mi sa che come ti scinda. Scappa, e beh, se la sai fare, è giusto che sia buona, dai, è giusta, come ci tocca a me. Antonello, Antonello, fai da bravo. Io, la verità faccio da bravo, già lo sai anche tu, ma il discorso è quello. Mi vedo a ridere, a certo punto. Attua anche tu questi discorsi, cara. No, ciao Natali, scusa, Oh, oggi non ce la faccio più. Siete due disgraziati, la verità, la verità dritta. E ringrazio che sto usando la mia 27enne che mi hanno testato, la verità, Ah, non so quanto duri, la verità, se dura un giorno, due giorni, forse tre. Dopodiché magari se ne va a far culo quell'antenna. Totalmente. Se ti facevo foto mi vedo ridere in genere. Io un'antenna l'ho quella. Quella mi sembra un coso. Una pione mi sembra. Quella ti avevo fatto a te fare i biscotti plasma. Non ho capito. Ho detto che non ti avevo fatto nulla, Antonio, a te i biscotti plasma. Ah, meno. Forse a te sì. Antonello, quando beve qualche bicchiere in più riesce il fumo dal questo. No, quasi sto scendendo la bocca però. No, aspetta, adesso mi sta venendo il dubbio a un certo punto. Quindi non è per me, no, per gli altri. Quindi sarà pericoloso per gli altri magari, Natalie, prima di la metto io. Natalie, dai, fai qualcosa per Antonello. Antonio, diceva. Allora, dimmi tu. Cosa c'è per domani mattina? Cosa vuoi che faccia, cosa gli faccio Antonello? Non lo so, impazzalo. Fai che cosa? Non credo proprio, guarda, Antonio. È per te, non per me. Ma sapete, va vedato in tre. Il quarto era torinese, ma l'ho sentito bene. Ah, Giusto. Che in pratica è per te, non per me. Tanto, non per me. Quindi, allora ci sei tu. Cazzo, però ti fa forza, Antonello, Tony. Cazzo, mi superare anche la Natalina. Perché ha messo l'antenna che c'ha adesso sotto il QSO della Mantova Turbo. Quello è vero, la verità. Perché non ho staccato la Mantova Turbo io. È sotto proprio al QSO. Di cosa ti sei ceduto, la verità. Ma tu, ma vero, mi passa. Ah, io non mi sono abituato altro volta, no? Solo a lui. Roba da matti. Che Natalino ho visto che c'ha quell'antenna, l'ho visto l'altra mattina passando. Ho detto questo è Natalino perché ormai l'antenna in casa di piazza più. E ho visto quell'antenna, ho detto questo è Natalino, siamo due bassi. Oh! Ma che vado, roba da matti. Mi ha crepato. Ui, ui, ui. Al basso. Ma com'è che io sono lontano? Tu sei poco più basso, non è che... Però, ripeto, stava la parola scema e là, nientato. Ma giù, dico, cazzo, mai chi c'è in Chibia? Al basso, sai. Sono qui a Levagiara, vicino al... Vi annullate, non se ne capisce più uno o l'altro. Adesso, se qualcuno ha fatto qualcosa in più, uno o l'altro non parlate, vi sento, uno o l'altro, però non vi annullate. Ho detto, che ero con 2 watt, ero al minimo proprio. Ah, no, perché poco fa, a un certo punto, quando avete parlato, si sentiva sia uno che l'altro, però non si capivo più. Però lui, che cazzo, fa con un bel segnalone. Guarda che anche Gianni fa fatica a rifare con quel segnale, che siamo a un tiro di palla. Io sono a San Camillo, ho fatto il gonzo, sono fuori dalla città. Sì, più 20, giusto. Ma più 20, con qualche picco. Ma non lo sono, 30-35. Allora, in pratica io sono venuto da te, il discorso è quello, hai capito? E l'antenna mi è stata prestata, più che altro, quello ti volevo dire, me. Mettetelo in testa, quindi, era una B27L che mi è stata prestata da Pablo Torres, in pratica. Se tu la vedi sembra un, cioè non sembra un'antenna, sembra un ciccafuso la vena, ma comunque una cosa non crede, ti sta io ti svaluto come niente in pratica con questo catamarano di antenna, hai capito? Tutto lì. Sì, ho capito, ma quante volte stai uscendo Pompo? Neanche con 50 la verità. Neanche con 50, almeno con 45, 50 stai uscendo. No, sto uscendo, ma comunque sia, è quello. L'antenna è stata, è di Gavino, di Pablo Torres, tanto dire a lui cos'è una B27L senza radiali. Figurati tu, una specie di merco di cosa vuoi ti dica io. Non va bene, cioè l'antenna che non c'ha nessun guadagno a un certo punto, ma comunque sia mi stai dicendo il contrario, quindi a un certo punto quell'antenna lì pompa, allora se pompa quell'antenna, cosa vuoi ti dica io? Niente. Sì, vabbè, Antonio, però sì, non fai il passaggio al balcone. Anche tu, non ti preoccupare, non fare il passaggio al falconista, diceva quello. Antonio, fai la prova che vengo lì, ti metto con le mutande e ti metto davanti alla fermata della 7. Allora sì, io l'attacco al cartellone della fermata. Senza i pantaloni. Ma roba la va, ti fai una domanda, apri un Vangelo, ti dice, te canti, mi sanno andare. Io sì, Allegretto, mi sembra imbriaco fragico. Sicuro. Sai che non beve Antonello, che ogni volta che beve gli fa sudare le ascelle, e siccome non gli piace l'odore delle ascelle, quando suda non sta più bevendo. Mai che non è vero. Ah, pure a grattarsi sopponenti, qualcuno va alla magnazzona. E ognuno ha i suoi problemi e noi chi siamo per dirgli di no? Ma che io adesso spiego tutto, me ne vado dentro, che mi devo fare un aspettatino che fagioli, siccome devo mettere due malato di fagioli, perché devo gonfiare una bomba golfiera. Ok, dai, mando le ciaramenti. Ciao Antonio, ciao Attalino, chi c'è nascosto, Antonello, Alessio, eventuali ascoltone. Un saluto, vi ascolto, allora sono acceso, vado dentro in cucina, dai. Ok, buon proseguo, ciao a tutti. Ciao, ciao, poi ci sentiamo domani. Buon tutto, salutone da parte mia. Lascio riprendere questi qua che sono tutti esauriti, insomma. Ciao Tonino, alle prossime, avanti Antu. Fabrizio. Ehi, ciao Tony, buon proseguimento di serata, è stato un piacere ascoltarti. Si continua a ridere, ciao ciao. Tu vai risando di capo Antonio. Antonio, è tutto esaurito, già lo sai anche tu. Per carità. Uia. Nulla ti ha fatto il camaradondo, Antonio. Anche a te, se no. Per carità, guarda. Ui. Ui, ui. Mamma mia! Ah, sì! Ui! E riprenditelo però Antonello, lo vedi com'è? Così cazzo con Antonio, Oh Antonio, avete parlato in due, non ho capito niente, né di te e né di Natalino, quindi adesso tu dici quello che stavi dicendo e poi Natalino dice quello che stava dicendo lui. Ah, vabbè, parla prima Natalino, poi parlo io, va. Ho detto che mi ha calpestato questo Antonello, se ne abusa perché io sono piccolo e nero. Appunto quello stavo dicendo io, in pratica. Più che altro con questa antenna adesso che sto usando io, me lo sto uscendo, ma stasera parlato con un muro, quindi a un certo punto cosa devo fare? Cazzo, Natali, ha un segnalone. Ma più benzina a te, dai, io sono in zona bassa. Ma buona? No. E poi poco fa stavo uscendo con due watt veramente, adesso ho aumentato un po', ma sono i watt dell'apparato, di più non aggiù. Cazzo, Natali, di segnale sei poco a poco più alto tu. Però lui si passa. E io non sono più lontano, io sono alle Baggiara mie, alle professionali. Sì, ma arriva meglio lui, vuol dire che in mezzo tra me e te, per quello che arriva con quel segnale, poi c'ha anche il watt lui dalla sua. Io sto usando un baracchino della mutua. Sì, vabbè, lui l'ha detto che comunque sta usando quasi 50 watt, cioè, quindi appunto. Chiediti appunto. E truncate aggiunto, Antonè. Da voi chissà cosa è fendi, boh. Si ridimi. Con questo risolino che c'ha tutta la sera, boh. Ui, etta, etta, guarda. Hai visto tanto riserva? Cos'è? Cos'è che devo vedere? Già l'hai visto, già l'hai visto, visto hai, eh? A un certo punto, con una terra di merda, ho pensato stasera, guarda, sopra il tetto, di quelle, ma proprio di merda mia, come antenna, a un certo punto, quindi, secondo me sono contento, guarda, quindi a un certo punto, mi sta bene. Mi sta veramente bene come segnale. Se avessi avuto la matematura ti avrei massacrato del tutto, ma siccome quello che è, mi sta bene quello che è. Lo so Antonio, ma tu sei bravo, sei un tecnico, è ovvio che riesci sempre a ottenere il meglio. No, non sono più un tecnico io, grazie a Dio. Io ormai se arrangiano gli altri, il discorso è quello. Ormai io tecnico non lo sono più, il discorso è questo. Ho abbandonato quel lavoro e quindi che ce l'hanno gli altri, il discorso è quello. Io se faccio qualche lavoro lo faccio solamente per me, non per gli altri, il discorso è quello. Ma quindi non sei più un tecnico? No, assolutamente no, non sono più un tecnico per nessuno. Ma vabbè, sei un tecnico per te però. Per me sì, ma per gli altri no. Allora sei sempre un tecnico per te. Questo cosa vuol dire, scusami? A un certo punto, se succede qualcosa, cosa devo fare? Intervengo, no? Assolutamente non mi interessa niente. Io faccio solamente le cose mie, non le cose degli altri, hai capito? Il discorso è quello. Poi, quando il discorso è quello, se tu fai, vabbè, tu sei in quel lavoro lì, arrangiati, ce va quello, no? Fai tutto, fai tutto quello che c'è da fare, eccetera, eccetera. Io ormai ho 60 anni, quando arriverai all'età mia, arriverai a ragionare come sono io, tale uguale. Quanti anni hai tu? 60 ne ho. Sì, vabbè, cioè, ma cosa vuol dire 60 anni? Mica se sei vecchio. Guarda che io ne ho 52, me. Non è che sono un ragazzino, no? Tutti ragionano così, tutti. Arriva a 60, fede. E poi ragionai, anch'io ragionavo così, 52, prendevo un palo da 6 metri con la mano qua sopra, prendevo la salivo sopra da sola, eccetera, eccetera. Oramai, tutto bloccato, tutto bloccato, non faccio più niente, per nessuno. Sì, Antonè, ti do perfettamente ragione, il fatto che non lo vuoi fare è un discorso, il fatto che magari non lo puoi fare è un altro, ma una persona che è un tecnico per tutta la vita, anche se non va a fare i lavori per gli altri. È un, il medico, perché i medici quando vanno in pensione cosa diventano? Calzolai? Ormai il medico quando va in pensione, dopo quello voglio avere un tubo di vita e di sugo, e già lo sai anche tu. A meno che non gli hai dopo il stipendio, il discorso è questo. Quindi. Vabbè, non ne penserà come voi, non è così, però una persona che ha il suo lavoro, ha il suo lavoro per tutta la vita. Io ho 10 qualifiche diverse e io sono sempre qualificato. Quando avrò 80 anni che non lavorerò più, sono sempre qualificato lo stesso, non è che le mie qualifiche me ne ruba qualcuno, no? Non lavorerò più perché la mia età comunque non me lo consentirà più di fare quei lavori lì, perché le mie qualifiche sono per lavori manuali, certo, no? La qualifica per fare, che ne so, per compilare agende telefoniche, però, ripeto, però sarò sempre quello che sono, anche fra 30 anni, se sarò vivo, cosa c'entra? Non è che certo, tu solo perché non puoi più prendere l'antenna non sei più un tecnico, sei sempre un tecnico, però non lo fai più, ti fai qualche cosa per te, per gli altri no. Oramai sono pregato io, quindi il salario come prima non posso, quindi a un certo punto mi devo fare una ragione, la verità, comunque sia. Poi vi dico quello che vuoi, sono arrivato a 60 anni, il discorso è quello. Poi c'è quello che dice, io a 60 anni, cazzo, faccio quello, faccio quell'altro. No, no, non è così. Purtroppo non è così. Io ormai sono, come si dice, fregato, in pratica. Non ci posso fare niente. Ormai mi godo la pensione e ce la prendo in culo. E baracchino, mi salto in antenna, c'è quello che è. Se lo faccio per qualche amico, quello sì lo posso fare, anche fare. Quello non mi costa niente a farlo, ma altro non posso fare, mi scusa con lui. E vabbè Antonio, nessuno ti sta dicendo niente, ti ho solo detto semplicemente quello che ti ho detto, punto e basta. Natalie. Puglia, Nara. Ehi, Nara che vado a preparare la cena. Quello ti naro. E vai, vai. Va bene, io vi saluto lo stesso che anch'io devo fare qualcosa qua. Ci sentiamo alle prossime, ciao Antonio, ciao. Antonello, non so se c'è qualche altro all'ascolto, ci sentiamo alle prossime. Guerretti anche per me. Meia, ciao Natalia, dai. Io vado che mi preparo la cena, che tra un po' arriva mia moglie. Ciao Antonello, stai tranquillo però, è inutile che stai lì, ah, ci sentiamo, eventualmente se qualcuno ascolto è salutato. Gappa, gappa. Ah, ma sei rientrato tu poi? Sono rientrato sì adesso. Guardati Antonello allora, ciao. Gappa me, ti faccio il signor Cimpura. Antonello. Sono appena entrato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ciao. Hola. Ciucu. Hola. Prova. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Hola. Prova. Ciucu. Hola, prova. 1, 2, 4, 5, 6, prova. Hola. Ciucu. Edo. Chiedo lo smonto io o voi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chi è che sta ascoltando? Ce ne più di uno. Tutti slonzi, tranne che io, il discorso è quello. Satalino, ci sei? Ciucucciù. Oh. Eia, non arriva audio, c'è la linea piatta, non vedi nemmeno lo zig zag dei picchi di modulazione, capito? Cosa c'ha quel telefono? È il computer, che non mi sta funzionando il microfono della telecamera. 16 euro, eh? Aspetta un attimo. WhatsApp dal computer, occhio, sta lì. È alquanto insicuro. E non sta funzionando il microfono della telecamera, manco la telecamera sta funzionando. Devo trovare una porta vuota per infilarcelo, per riprendere. Capito? Sì. Qua te lo faccio ascoltare, cioè non è che c'è da ascoltare, sto premo. Tutto. Non si sente nulla. Ma tu lo senti il tuo? Cioè, te lo puoi riascoltare il tuo messaggio? O non lo senti nemmeno tu? No, io ti sento a te, perché ce l'ho nel computer WhatsApp, però non mi sta funzionando la telecamera, non mi si accende neanche la lucetta. Capito? Aspetta un attimo. Sto cercando di ripristinare la telecamera. No, dico, i tuoi messaggi vocali riesci a sentirli tu nel tuo computer? Sì, che ti sento quando parli tu. No, quando parli tu li puoi sentire se vuoi. Certo, aspetta un attimo. È strano che tu li senta, i tuoi, e io non li sento. No, perché stavo chattando in un altro canale con un'altra persona e con messaggi vocali funziona, quindi non credo dipenda da me. Poi cerca di capire se è l'hardware che non va bene o se sono i driver e quindi il software. Poi non me ne fa vedere il computer che c'era fino a poc'anzi, attaccato al computer, tutto, computer, tablet, smartphone, tutto quanto. Oh, io quanto mi prende gli occhi. Sono i driver. Anche il cane ci sta ribellando. Niente, mozzo. Che telecamera è? Sono andato a aprire un attimo, Marco. Via. Scusa, fai perdona la sbadiglia, ma ho detto che telecamera è, che marca è? Un HP. Anche di marca, dai. Non è di quelle cinesi, no? Io uso quella interna, che è HP. Oppure ho anche una USB, come si chiama, della Microsoft, e non è niente male, però naturalmente è fuoco fisso, non puoi regolare il fuoco, capito? Non è professionale. Sì, lo so, è qua. Scusa, ma la sorte è successo e non mi sta funzionando. Cosa ti volevo dire? Sai cos'è? Quella del computer è troppo larga, cioè ti prende tutta la stanza, ci avrà 120 gradi di angolo, capito? Mentre quell'altra Microsoft è proprio va stretta sul mezzo busto, diciamo, dai, a distanza classica. La vuoi provare? Se proprio è necessità meno lì. No, gli metto i driver e torna a funzionare, sarà corrotto qualche file. Vabbè, sì, prova a installare i driver. Dico, sempre che non sia proprio la telecamera partita. No, se l'ha dimenticata il computer, mi. Sì, va bene. Ok Natalie, dai, sentiamo quando capita. Eia, vista la fai nei cazzo perché ci sta buona. Ci ho messo quell'olio verdone nuovo che ho buscato, no? È uscita una bomba, veramente buona. Eia, sì, guarda, tra un'orecchiata e l'altra qua rimane acceso, bene o male ho sentito che vi state dilettando. L'altro giorno si parlava anche dell'olio, c'è qualcuno che mette l'olio anche nell'impasto, qualcuno ha detto che è sacrilegio invece che va messo esclusivamente sulla teglia. Beh, mi sembra ovvio, no? Che vuole messo solo sulla teglia. L'olio serve per non farla attaccare la faina. Sì, a poi naturalmente non so se si rimescola lì nella teglia, un po' di olio se lo prende da sotto, dalla teglia, capito? Certo che se la metti nell'impasto diventa una cosa pesante, boh. Va bene, e com'è difficile da fare? Una cazzata a farla, la puoi fare pure tu. Se ti dico com'è farla, è una cavolata a farla. Sì, ho sentito che avete nominato anche le tagliette comprate da, mi pare, Risparmio Casa, Auretti Casa, una cosa del genere. Sì, da Risparmio Casa io l'ho presa quella teglia, una taglietta piccola, però è uscita bene la fainetta. 200 grammi è perfetta, 200 grammi di farina, te lo metti tutto dentro la teglia, l'impasto, però deve riposare 4 ore l'impasto, non la devi infornare prima di 4 ore. Sì. Se no è una schifezza. Sì. Sentito anche quello, i consigli li ho percepiti. Sai, io vado qua, cucina, avanti Andrea, e bene o male qualcosa l'ho capito del discorso della Fainé. E se no buono che la fa Sassari, buona a Beogiano. In modo da non uscirci agli antipodi, però, capito, che sia centrale, un po' al centro di Sassari. Oggiano è già un po', vabbè, considerato centro, lì, Viale Dante Angolo, via Bugino, Catalocchino mi pare. Tu la fai come ti dico io, ti esce una bomba, altro che quella di Oggiano, perché il trucco è nell'olio buono devi mettere, se non metti l'olio buono non esce bene. E aspetta che spengo quella televisione, ma non ho le balle. E ogni abolotto che c'è. Sì, mi viene male pure, perché mia moglie se la mette alta a cazzo e poi non ne capisco niente io. Meno male che è andata a fare una commissione e non c'è adesso. Mamma mia, come avete fatto a non ammazzarvi tra di voi, tra TV Alta, Carica Baia? Se uno vuole un po' di privacy non la può avere. Uia. È un rompimento, le donne sono, non ti sposare mai, per carità. Ah, non c'è pericolo. Te l'ho detto, la donna è nata dalla costola del diavolo, capito? Non di Adamo. La donna, la maledizione dell'uomo. Sì, non lo dia faura, no. Gesù Cristo mio, gas. Se avessi avuto un posto dove andare me ne sarei andato da qua. Già, c'è un ambientaccio qua. Lo sa che non mi hanno ancora dato il porto d'armi? E deve essere per quelle denunce che hanno fatto perché disturbavo. Sì, ma il baracchino non c'entra niente con le armi, capito? Che non si allarghino troppo. Diciamo che la burocrazia è lenta, perché adesso si grattano le balle negli uffici, capito? È tutto, come dire, quando devi andare, non è che arrivi ed entri, è tutto l'appuntamento, capito? Come se uno, per esempio, va, come se per appuntamento il Covid non lo potessi contagiare o prendertelo, capito? Vabbè, contenti loro. Ehi, ma cazzo, sono già 2 mesi, perché a me in una settimana me l'hanno dato l'ultima volta che l'avevo fatto. Adesso l'ho data il 6 ottobre e all'altro giorno non era pronto, mi pare strano. Secondo sbadiglio, mamma mia, abbi pietà. Allora, vabbè, abbi pazienza, già da un giorno all'altro sarà pronto. E che altro ti devo dire? Boh, avete modulato oggi, perché oggi ero tutta la sera in camera del computer a fare fotocopie, a fare scaricare documenti fiscali, non fiscali, la malata Zorchi che l'accompagna. Sì, fini minira, Marco. Cesso che... Sì, c'era Antonio Riserva, c'era ogni risata, Alice Guttu che pippa, ridende, ogni cosa che fa cazzo, un casino. Ah, e lui entra poco, è vero, ogni tanto entra così, da, e passa una serata. E poi da raccontare, non c'è niente, le giornate sono uguali, dobbiamo fare la voltura dell'Enel in fretta che ci scade, mamma non può venire, deve fare la delega, e tante commissioni, dai, sempre, qualcosa da fare c'è sempre. E non dirlo a me, anche io giro fuori a prendere il cherosene, il caffè che ho io, se ti fidi mi fa perdere il mese di dicembre dell'RDC, meno male che ho risolto, c'ho l'appuntamento domani con un altro che mi fa questa domandina, se no non mi danno i soldi a dicembre. Sì, una rottura di scatole continua. Dunque, ecco, ti volevo dire, vabbè, niente di che, era lì, dai, quanto sono le? Se non faccio mi dico un po' a mamma, vedo cosa vuole mangiare stanotte, ma so già che vuole mozzarella, mi. Senza cucinare nulla. Ogni volta che le propongo, non è che glielo propino a forza, ogni volta che propongo roba cucinata, no, guarda, se c'è mozzarella, cosa leggere, mi fiocchi di latte, roba molto leggera, yogurt naturale, magro. Sì, vuol dire che non se la sente. Non le piace più appesantirsi la notte, ci appesantirsi, fare una cena normale. Io invece, se no, se fagiolate alla messicana, chili con carne, tutta roba che poi tra la notte e il giorno dopo qua diventa una camera a gas. È minimo. Vabbè, dai, ci sentiamo, più lasciato da fare. Va bene, ci sentiamo, dai. Sì, è pure roba piccante quella. Ehi, Natali, ciao. Ci sentiamo. Ti volevo chiedere, Concetta è devota di San Pio oppure di altre roba? Ma che ne so, quella lì è un'autorità in religione, sta facendo tono alla catechista, cazzo, è stato un rabbino, un dorra, che cavolo glielo fa fare? No, vabbè, io quel mondo per me è lontano mille miglia, capito? Non sono andato mai a servire messa né niente, non mi interessano quelle cose lì. Forse uno vuole credere in qualcosa, già crede per conto suo, senza andare a ossequiare preti, a raccontare i cavoli propri. Cosa credi? Non vanno a cascettare i preti, buoni quelli. Mille. Lasciamo perdere. Sorvoliamo, Marco. Ciao Natali, cuoriti per me, ciao. Ciao, Le Prusse.